vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 20 di Ratto di Campagna Topolino di Città, il programma di Radio Big World che ormai lo sapete dalla campagna a cavallo di un asino vi porta in città e lì si lascia l'asino allegato da qualche parte, si prende un tucano e ci si lancia verso il centro. Insomma, questo programma dedicato ai campagnoli, come me, che in città non ci sanno stare, non si sanno comportare, che si vede subito che sono gente di provincia e invece no, siccome le province l'hanno abolite, tra l'altro le ha abolite l'ex sindaco di Firenze e probabilmente Firenze farà l'asso, piglia tutto e si ingloberà un sacco di comuni e di paesi. Qui da noi le fusioni sono a mille proprio per essere comune unico, così che Firenze ci prende dentro con più facilità burocratica probabilmente, ma queste sono solo fantasie, anche perché noi ancora non siamo pronti per stare in città e pertanto ci rivolgiamo a chi invece in città ci sta, a chi le istituzioni cittadine le conosce, a chi sa come parlare, sa dove andare e soprattutto sa come non farsi fregare a Firenze. E colei che quasi uno zorro della fiorentinità, che smaschera il provinciale e benedice il cittadino, abbiamo colei che mentre noi tagliavamo l'erba estiva con la falce fienaia, lei aveva già il robottino con l'algoritmo. Laura! Ciao, buonasera, ciao a tutti. Laura, l'argomento di stasera ci tocca molto da vicino, ci ha toccato nel passato, ci tocca nel presente. Entrambi abbiamo avuto esperienze all'interno di queste istituzioni un po' contrastanti. Insomma, alla fine tu eri il genio e io quello, e quando ci si vedeva nell'estate dice: m'hanno dato 25 materie più quelle di un'altra scuola, tanto ero scarso. E infatti parleremo di scuola, andare a scuola a Firenze. Argomento a me molto caro, perché insomma sono sempre stata abbastanza secchiona, quindi mi piaceva la scuola. Laura era quella che veniva con le super pagelle, veniva con i super voti e noi zucconi che ci toccava guardare in terra quando lei raccontava i suoi risultati scolastici. Probabilmente l'abbiamo anche un po' invidiata. Ma andiamo a eviscerare, parliamo di scuola, quindi parleremo anche un po' forbito, andiamo a eviscerare il tema della scuola e cominciamo proprio dall'inizio, ossia dall'asilo nido e dalla scuola materna. Ora, qui da noi di asili nido e di scuole materne ce n'è un paio, insomma, una cosa serena, sì, poi c'è quella del prete, ma insomma è una roba anche tranquilla. Quando ci fu il boom dei bambini degli anni 70 c'erano anche tanti asili privati, molte monache effettivamente, però poi oggi con il calo dei bambini e con il costo del lavoro sono cambiate le normative, oggi una monaca non è più autorizzata solo per il fatto che è monaca a tenere dei bambini, anche perché negli ultimi tempi di questi asili qui da noi ci fu qualche denuncia per degli scappellotti dati con l'anello. Ma a Firenze, che di scuole materne e di asili nido ce n'è tantissimi, come si fa a scegliere una scuola per i propri figli? Oltretutto, tu che ora sei mamma e che la tua bambina presto incontrerà il mondo della scuola, come ti orienterai? Allora, il mondo della scuola lo incontrerà un po' più tardi degli altri, perché al nido non ci va. Avendo io la mamma in pensione, che ha fatto l'insegnante di scuola materna, appunto. Quindi io sono cresciuta a pane e insegnamenti di scuola materna. E allora anche a casa facevo le tempere, facevo la creta, facevo la pasta di sale, facevo la terracotta e i collage. E al nido però a me i miei mi ci hanno mandato, a differenza della mia bambina. E con risultati disastrosi, perché ero sempre malata, tanto che proprio disperazione ho preso la babysitter e non mi mandarono più al nido. Allora io, conscia di questa mia esperienza, ho detto no vabbè, facciamola ammalare più tardi, quindi ho saltato direttamente il capitolo asilo nido, però so che chi ce li manda, insomma, un po' ingrullisce, come si può dire, graduatorie, nido di qua, nido di là, comunale, statale, nido privato, che alla fine poi conviene perché costa solamente poco di più di quello statale. Delle scopole! Sì, hanno dei prezzi allucinanti, ma 400 euro al mese all'asilo nido, anche quello pubblico, quindi insomma, viva i nonni, chi se li può permettere. La scuola materna si sceglie in base alla vicinanza, così come un po' anche il nido. Poi vabbè, io avendo appunto la mamma insegnante, ho vissuto l'esperienza di mio fratello che doveva essere mandato in una scuola materna dove mia madre sapeva che c'era una collega di una sua amica, di una sua collega che era brava, no? Allora, quando entri nel merito delle insegnanti che ci sono di qua o di là, e allora segui la persona. Infatti mio fratello fu mandato in una scuola materna lontano da casa, con il risultato che poi l'insegnante doveva essere lì, rimase incinta, quindi non ci fu. La strada da fare era tantina per andare là e lui si trovò pure male, però ormai era stato iscritto lì con un amico, insomma, quindi fu un disastro, cioè i miei genitori per fare meglio fecero peggio. D'accordo, come si dice, coi figli come si fa male, no? Sì, invece io alla scuola materna mi sono trovata molto bene, vicino casa c'era il bel giardino, speriamo anche mia figlia si trovi bene, dai. E già che si parla di scuole vicine e lontane, una curiosità, da noi qui in campagna, sì, c'è il paese, ma sono anche tante le frazioni o le località, pertanto il comune organizza un servizio di scuola bus per chi non vive in centro o non ha l'opportunità di avere i genitori che vanno, o i nonni o chi per loro, che li vanno a prendere a scuola. Ma a Firenze, in città, esiste il pulmino? Ma certo, è giallo, è piccolo e scendono tutti questi bambini che fanno una tenerezza, bellini. Sì, sì, sì, c'è anche da noi. Anche da noi. Mi ricordo però una mia amica che lo prendeva, veniva un po' presa in giro. Ah, tu vai col pulmino, non so perché. Forse, non lo so. Al giorno d'oggi però prendono in giro più il bambino che viene accompagnato dal genitore proprio lì davanti, no? Questi bambini vogliono essere indipendenti. Cambiano i tempi. Cambiano tempi. Quindi ci sta che se un bambino abita in centro, il pulmino te lo porta in centro, che ne so, fermata sotto il David di Michelangelo. Ma scherzi, come no? Ah, il comune di Firenze, incredibile! E come una... poi aspetta, sul pulmino c'è anche un violinista che ti accompagna. Auguriamoci, insomma, non sia uno zingaro, che come dicono le leggende c'è il caso che un par di bambini se li porti via. No, ma io ti volevo anticipare sulle tue battute sul nostro sindaco, quindi l'ho messo direttamente sul pulmino a suonare il violino. Tra l'altro c'ha tre figlioli il sindaco, quindi insomma sarà attento alle esigenze dei piccini. Ricordiamo poi... a chi ci ascolta che il sindaco di Firenze, a parte gli scherzi e le battute, è un musicista, è diplomato in conservatorio e credo che il suo primo strumento sia proprio il violino, quindi insomma ci facciamo le battute, ma in realtà è una cosa serissima e il sindaco è un musicista per davvero. Sia mai, certo, certo. Firenze ha artisti come sindaci, mica gente che non ha mai lavorato in vita sua. E le scuole elementari, qui il comunale c'entra fino a un certo punto, talvolta solo gli edifici ma non gli insegnanti, e anche di scuole elementari ce ne sarà un catafascio a Firenze. Ascolta, questa, allora, chiedo scusa se sono un po' troppo autobiografica oggi, ma magari ogni tanto ci vuole, guarda, un tuffo nel passato mi piace, poi il mondo della scuola mi è sempre piaciuto. La mia scuola elementare era bellissima, era su una collina, era piccolissima, era veramente come la casa dei sette nani, non lo so. eravamo pochi ad andare perché non la conosceva nessuno. Ci siamo trovati, quando ero in terza elementare, due classi, una di 12 e una di 10. Eravamo 22 in tutta la scuola. Era proprio come essere in famiglia. Poi facevamo queste ricreazioni lunghissime in mezzo ai campi. Era come essere in paese, perché era sulla collina di Marignolle. Poi la chiusero perché la quinta elementare se ne andava. La prima quell'anno non l'avevano fatta, quindi si rimaneva solo noi come terza, perché di solito faceva seconda e quarta, poi prima, terza e quinta. Un anno non ci furono abbastanza bambini per fare la prima. Io penso che se fosse successo oggi, con Facebook, con internet in generale, quella scuola sarebbe stata pubblicizzata, perché ora c'è questo, questa volontà, il ritorno alla natura, no? Lì eravamo veramente in mezzo alla natura, stavamo benissimo, e però purtroppo la chiusero perché eravamo rimaste solamente una classe, non si poteva tenere aperta una scuola per 12 bambini. Tra l'altro gli insegnanti delle due classi erano marito e moglie, quindi c'è proprio proprio versione casalinga al massimo. Le antiche scuole di campagna, pensa. Esatto, quindi vedi, non siamo proprio così distanti, caro Giorgio. La chiusero, noi si fece proprio la festa di addio alla scuola, con tanto di poesie, con tanto di, non ti dico funerale alla scuolina, però guarda, fu veramente emozionante. E quindi poi la quarta e la quinta l'ho fatta in una scuola più normale, con più gente. Però pensa che, guarda, quella scuola ce la ricordiamo tutti, perché ci è rimasta nel cuore. Quella scuola elementare c'è ancora, oppure hanno asfaltato tutto e ci hanno fatto delle palazzine gigantesche? No, che non c'è più, e ti ripeto, venne chiusa quell'anno sì, lì. Sì, come scuola, ma come edificio. Allora, senta, ci hanno fatto un po' una sede di una radio, guarda un po' che coincidenza. C'erano dei radioamatori, non so cosa combinavano. E adesso non so se è stata venduta a qualche privato che l'ha resa una casa, perché come effettivamente era piccola. Ma poi sai che cosa mi ricordo? Che la dirimpettaia era una signora un po' burbera, che non voleva chiasso, e ogni tanto ci tirava le secchiate d'acqua. Oggi la denuncierebbero, l'arresterebbero e gli troverebbero la pedopornografia, perché tanto la trovano a tutti. E invece no, all'epoca era tutto più lecito e si stava tutti più liberi e si stava meglio. D'accordo, tra l'altro mi fai venire in mente che anche qui da noi c'è una scuoletta che è in una frazione, non è mai stata chiusa, c'ha un bellissimo giardino, i campi, i boschi, l'aria è molto buona, o perlomeno meno sporca che in paese, e infatti ci sono i cazzotti per entrare in questa scuola, liste d'attesa incredibili, tangenti, gente che magari ammicca all'insegnante pur di fare entrare il figlio. Pensa che anche Firenze vive di queste esperienze. E tra le scuole, allora, da noi il metodo di insegnamento è quello classico, cioè uno è dipendente dello Stato, c'è un programma, fa quello. Un tempo c'era chi manco faceva quello, oppure faceva finta di fare quello e in realtà non faceva niente. Ci auguriamo che oggi, c'erano anche tantissimi insegnanti seri, la maggioranza, ci mancherebbe, però il mito dell'insegnante di provincia, un po' sbuccione, e in certi gradi di scuole ce n'erano parecchie, vabbè, questo era il metodo di insegnamento. Ma a Firenze magari ci sono scuole con metodi particolari, il Montessori, il metodo Callaghan, o come si chiama, tipo l'ispettore per imparare l'inglese, ci sono scuole che sono sulla bocca di tutti proprio perché utilizzano dei metodi di insegnamento differenti, non comuni? Forse sì, ma non ne sono al corrente. Quello che so è che ci sono scuole fin dalle medie considerate più dure, più rigide, quindi se vai lì devi studiare per forza. Sono un po' lo spauracchio dei ragazzi, o se no il vanto di qualche ragazzo che, messo su dai genitori, no? Vuole andare orgoglioso della sua scelta difficile. E poi ci sono scuole, per esempio, c'è la scuola americana che è famosa perché fa tutto in inglese. Voi non, mi sa che non ce l'avete questa, cari. No, gli americani no. Cioè, fai tutto in inglese a partire forse anche dalla scuola materna, una roba che insomma esci di lì e puoi andare direttamente dalla Regina Elisabetta e si toglie il cappello lei. Vicino a Piazza di Michelangelo, insomma, anche la location c'ha la sua importanza. Chissà, chissà, ci vengono anche da altre città, perché insomma se te vuoi essere figo e la scuola americana fa il caso suo. D'accordo, poi uno esce sembra James Dean, bruciato proprio. D'accordo, pensate gli americani che gli racconteranno il loro metodo educativo, a parte il fatto che sia in lingua inglese, è notorio per essere un disastro, sicché figurati a Firenze. In fondo gli americani hanno vinto la guerra e non è che vengono a insegnare a noi che l'abbiamo persa come si fa a vincerla, se no facciamo un'altra guerra, li vinciamo, e stavolta facciamo noi le scuole italiane a Brooklyn, e ci saranno già tra l'altro le superiori. Le medie sono un imbuto, c'è lì, c'è la cosa emozionale, si comincia a capire, ci piace i maschietti, le femminucce, si fa le bischerate, alla fine sono solo 3 anni in certi paesi, ma anche esistono perché sono in parte con le elementari e in parte con le superiori. Pertanto andiamo alle superiori. Ora, qui da noi c'è qualche istituto, ce n'è vari, non sono pochi per carità, ma comunque sono una frazione ridicola rispetto alla scelta che c'è a Firenze. A Firenze praticamente si impara ad ogni cosa. Come un fiorentino sceglie le superiori? Ci saranno dinamiche diverse da quelle della campagna, cioè il mio babbo fa l'avvocato e allora vado in questa scuola, e il mio babbo fa il pecoraio e allora vado in quell'altra. E a Firenze come si sceglie? Conta la famiglia, conta quello che ti dicono i professori delle medie. Generalmente ci sono 3 opzioni: se fai abbastanza schifo a scuola ti dicono di andare a professionale, se sei bravino ma non c'ha tanta voglia, oppure non sei proprio una mente brillantissima, ti dicono di fare l'istituto tecnico. Se sei bravo, beh, liceo, insomma, diciamo un po' riduttivo, però è così, almeno a mio tempo era così. Però ecco, i licei, tra l'altro, cioè, non sono molto informata perché sono nati come funghi diversi licei, diversi istituti tecnici negli ultimi anni, dico, io non so niente, c'è quell'indirizzo scienze applicate, c'è lo sport, c'è ogni cosa, la cosa psicopedagogica, insomma, all'epoca mia c'era lo scientifico è classico e poco più, e quindi era abbastanza ridotta la scelta. Io ho scelto il liceo scientifico, era nel mio condominio, cioè, tipo sentivo la campanella, lo sai, non ridere, sentivo la campanella, la sveglia e la campanella suonavano nello stesso momento e arrivavo puntualmente in ritardo. Quando i professori scoprirono io abitavo lì, veramente, perché in ritardo alla fine era contemplato per quelli che venivano appunto dalla campagna con la sita, no? Cioè, vabbè, ha fatto tardi la sita, cioè io non potevo arrivare in ritardo. Invece poi sai benissimo come va, più vicino abiti ad un posto e più tardi fai, perché più tardi parti e più tardi arrivi. Quindi, però ecco, tipo quando c'era un'ora, come si dicevano, un'ora di buco, un'ora che mancava un professore, invitavamo un po' tutti a casa mia e facevamo una merenda e poi dopo ritornavamo a scuola, quindi... E tutti mi dicevano, però non puoi fare forca, com'è che non puoi fare forca perché stai qui? Invece la forca potevo fare, perché comunque mi hai andando al lavoro più lontano, uscivo prima di me da casa, no? E quindi avevo campo libero, potevo anche fare una bella forca rimanendo a letto. Incredibile questa di avere il liceo nel cortile di casa, è una delle tue storie più incredibili e ogni volta mi piace sentirmela raccontare. Lo so. Mi viene in mente me, che io insomma la scuola non l'avevo tanto vicino, e levati presto, il sonno, l'occhi ci sposi, arrivare lì a scuola e per un'ora biasciare, insomma te l'avevi direttamente sotto casa. E le scuole superiori da VIP, in ogni città, in ogni grande città ci sono le scuole da VIP, ci sono persino a Arezzo, a Firenze pare che la scuola delle scuole sia il Dante Alighieri, un vostro ex sindaco si vantava di aver studiato lì e probabilmente è stato eletto anche per quello. Ma senti, come liceo classico, già il liceo classico è più da VIP, no? Già se vai al classico invece allo scientifico sei un gradino sopra. E se poi questo classico è anche il Dante Alighieri, insomma, almeno parlo per i miei tempi, sì, effettivamente. Così come lo scientifico, il mio era Rodolino, era un po' più scarso, il Castelnuovo c'aveva questa fama di, insomma, di essere migliore. Che ci vuoi fare? Si va anche per fittonate, poi dopo basta che ti capita un professore mezzo matto che la fama del liceo poi cade. Quindi, beh, chiaro. Insomma, e forse la buona scuola è nata anche per evitare che il Dante Alighieri, insomma, riceva professori non graditi e mantenga questa sua aura di inarrivabile sapienza. Poi, vabbè, insomma, se qualcuno arriva a fare il sindaco uscendo da lì, probabilmente, effettivamente, qualcosa quella scuola ha fatto. Una cosa non da poco, i contatti, visto che la ministra ha detto che è più importante il calcetto del curriculum, magari essere andato a scuola con qualcuno di importante a 30 o 40 anni è una carta giocabile. Mi viene in mente il film di Aposodo, qui siamo a Livorno, però insomma, quando il povero Manzani va in questo liceo e non è figlio di nessuno lui, anzi, cioè è padre carcerato e insomma è ridotto un po' male. Invece la professoressa dice a tutti, legge tutti i cognomi e ricollega tutti i figli ai padri, no? figlio di, e insomma un ambiente altolocato, però per ogni tanto qualche intruso ci può stare. Nel piccolo usava farlo anche da noi, solo che io sappia di quelli che sono usciti da quella scuola più o meno tutti stracciaculi, ognuno alla sua misura, ci mancherebbe, ma nessuno è diventato presidente dell'ONU, nessuno è diventato astronauta, nessuno è diventato sindaco di Firenze. E veniamo a un tema che è di particolare attualità per chi va alle superiori, perlomeno per chi ci andava negli anni 90, e cioè le scuole private. A Firenze di scuole private ce ne sono molte, anche qui da noi qualcuna, tanto per dirne, ovviamente scuole religiose, e spesso e volentieri ci andavano i figli dei comunisti, di quelli che mangiavano i bambini la mattina a colazione. Pertanto a Firenze, che ci sono nomi notissimi, non ci sono i gesuiti, ma per esempio ci sono gli scolopi. Le scuole private a Firenze come sono? Le scuole private a Firenze sono quelle dove va chi non c'ha voglia di studiare, cioè era proprio un'equazione matematica. Allora, tipo, un mio amico verso metà anno iniziò a dire: no, qui c'è troppo da studiare, non ce la posso fare, sai che fuoco, io voglio gli scolopi. Oppure tipo: oh, io sono passato quest'anno, neanche una materia. La risposta classica: sì, vabbè, ma te stai agli scolopi. Cioè, questa religiosa proprio non importava a nessuno, era semplicemente il posto dove andare per passare. Insomma, la scuola privata, almeno all'epoca mia, era sì, paghi e passi, molto semplice. Questo lo dicevamo anche noi delle superiori private che c'erano qui. Però chi faceva queste scuole ovviamente smentiva e diciamo no, i miei amici forse erano più sinceri dei suoi, non smentivano. A Firenze, dicevo, siccome guarda, si paga, dice, oh, qui diciamo le cose come stanno. No, guarda, questo che era proprio in classe mia, cioè lo vedi a fine anno, ah, guarda, sono rinato, gli scolopi veramente, come fate a stare in quella classe dove c'è così tanto da studiare? D'accordo. Tra l'altro, insomma, conoscevo gente che era andata agli scolopi, erano anche figli di gente di un certo livello e me la vendevano, come dire, sai, questa è una scuola molto di elite, c'è solo poche persone selezionate. Eh sì, selezionate dal portafoglio. Esatto. Con rispetto per gli scolopi. Ma scusa, ma che hai detto? Ci vanno i figli dei comunisti, ma i comunisti non possono andare alla scuola cattolica, ma che dici? Eppure non ci crederai, ma qui la scuola delle monache era gettonatissima da quelli del partito. Coerenza, insomma. Il catto comunismo, insomma. Catto comunismo, è vero, esiste anche il catto comunista. Ma alla fine anche il Gesù era una specie di socialista massimalista. Sicuramente. Sì, pertanto, chissà, facevano tornare le cose. E a questo punto, Laura, te non fai testo perché, cioè, insomma, per evidenti motivi, ma dove si faceva furca a Firenze? Sai, non cosa andava in campagna, noi ci vedeva, si cambia di paese, ma voi state in città, come fate? Pigliate un treno e venite da noi. No, ma secondo me è il contrario. Io so di un ragazzo di paese che prendeva il treno e veniva al centro a Firenze, dove c'era il posto gettonatissimo per fare forca, che poi faccio testa anch'io, guarda, l'ho fatto pure io le mie forche. Ora se mi sentono i miei genitori dopo 20 anni non ci credono, perché insomma la brava ragazza con tutti a scuola che facesse forca era difficile, invece no, mi organizzavo. Allora in centro c'era gettonatissima la sala giochi di Piazza San Marco o di Via Nazionale, vicino a sì. C'era una tristezza infinita, cioè ti chiudevi lì, vabbè, tanto qualsiasi cosa era meglio che andare a scuola, no? D'accordo. Poi c'era la ludoteca, che insomma, non so perché, però andava di moda per fare forca, o c'era semplicemente il giardino, di Boboli, per esempio, insomma, vari giardini. Ah, spesso la forca era fatta da uno sciopero o da una mancanza di riscaldamento, però quelle erano le forche dove si poteva dire ai genitori, no, che non si era andata a scuola, guarda, non è stato nessuno, c'era sciopero, oppure mancava il riscaldamento, faceva freddo e non siamo entrati, quindi quelle te le firmavano i genitori, così o ignari di quale fosse la vera motivazione o non lo so, se si fidavano, se facevano finta. Però guarda, te dici che ero un insospettabile, ma io ero anche una che firmava le giustificazioni altrui perché riuscivo bene a copiare le firme dei genitori. Oh, mi sto confessando, aiuto. Ma chi sei? Mastro Adamo, quello è falsificò i fiorini, incredibile. Quindi insomma... E poi senti, una volta facemmo forca io e una mia amica, per non essere beccate ci scambiamo il casco, quindi eravamo tutte e due in motorino. Però dice, vabbè, se ci riconoscono, allora mettiamoci io il mio casco e tu, cioè, capito? Così almeno il motorino e il casco non venivano associati alla stessa persona, eravamo più tranquille. Quante ne studiavi, incredibile! Se tutto il tempo che io ho passato a pensare come fare forca e farla franca avessi studiato, probabilmente avevo voti più simili ai tuoi che più simili a quelli di un ripetente. Con grande rispetto. Ma stai zitto, anche se eri bravo, dai, da non fare il modesto. E a questo punto, Laura, è una cosa che mi colpisce, ci hanno fatto i film sopra, perché evidentemente è una cosa che è molto diffusa, e cioè i compagni di scuola. Ma non i compagni di scuola in senso lato, gli scomparsi, ossia, pur vivendo in una realtà limitata e pur sapendo che moltissimi dei miei compagni di scuola non è che hanno fatto fortuna e ora uno è sindaco di New York o stanno chissà dove, sì, magari qualcuno c'è, ma i più sono ancora qui in città eppure non li ho mai più rivisti. Li chiamano gli scomparsi. Non è che a Firenze, perché è la città, perché si va a vedere i fuochi, perché si va a vedere lo scoppio del carro, si vedono con più frequenza. Ma che, io anzi pensavo che da voi si vedessero con più frequenza, al bar di paese, o comunque, anche se non lo vedi, sai, dalle chiacchiere degli omini del bar che fine ha fatto, pensavo fosse così da voi. Da noi si scompaiono. Allora senti, quando nacque Facebook ci fu inizialmente la tendenza, la moda di fare la scena di classe del 1870, ricercare tutti, Però secondo me è un po' così scomparsa, perché evidentemente, cioè, molte di queste scene sono state imbarazzanti, cioè, ma te chi sei? Ma chi si ricorda? Cioè? No, io in realtà mi ricordo quasi tutti, però a volte non so più che dirgli a certe persone, e poi la classica frase, ma se non ci siamo rivisti finora, ma insomma un motivo c'era. Per forza. Però aspetto, Ravitti, ti lancio veramente, cioè tiro fuori l'asso dalla manica. Perché tu non hai la fortuna di aver avuto una persona che poi è diventata famosissima in classe. Quindi, cioè, lei può essere anche scomparsa, ma io accendo la televisione e la vedo. E lei è Vittoria Puccini, era in classe mia, capito? Allora, ecco, però... sì, è scomparsa magari dalla cerchia di noi comuni mortali, ma insomma è entrata nel mondo, nell'Olimpo dei famosi, e quindi mi posso vantare di aver avuto come compagna di classe un'attrice. Io andavo malissimo a matematica, Laura, ma pensando al tuo anno e pensando a quello che dice Wikipedia dell'anno in cui è nata questa attrice. No, c'è una certa taglia. Taglia, taglia, non si può dire. C'è stato un piccolo errore. Un piccolo errore sulla data di nascita. Va bene, d'accordo. Allora, abbiamo capito come si viveva a Firenze la scuola, come la si vive in parte ancora oggi. Facciamocene una ragione, la forca l'hanno eliminata, ora con il registro elettronico, con un'app, arriva subito al genitore il messaggio che il figlio è assente. Pertanto, poveri ragazzi di oggi, poveri, poveri. I bei tempi sono andati, però probabilmente con la buona scuola che si avvierà, e io ci credo, non è che sto qui a dirlo, ecco, sei sempre a fare ironia, no no, ci credo che magari funzionerà. Ci auguriamo che per chi la scuola la fa ora e per chi la farà in futuro sia meno dura, sia meno noiosa, sia meno di sacrificio rispetto a quello che è stato per noi. Laura, grazie, grazie della tua testimonianza. Ma figurati, è stato un piacere. Attenzione agli errori di Wikipedia. Salutiamo i nostri ascoltatori e gli ascoltatori di Radio Big World e ci diamo appuntamento alla prossima fiorentinata. Fiorentinata. Olè.